Siamo qui con una compagna dall'Argentina, Ana, che tra le altre cose fa parte anche del Tribunale dei Popoli per la Sovranità Alimentare e dell'Assemblea dei Popoli. Abbiamo avuto l'occasione di incontrarla qui a Roma per una parte probabilmente importante della sua storia, che è quella appunto della lotta contro la Monsanto, in particolare contro gli interessi dell'agroindustria in Argentina e più in generale nell'America del Sud. Colgo l'occasione insomma per salutarla e per chiederti intanto di raccontarci brevemente gli ultimi sviluppi di una lotta che abbiamo sentito anche in altri media, che è quella della fabbrica Monsanto che la popolazione è riuscita a non far sviluppare, a non far aprire in una zona appunto in Argentina che è Malvinas. Bueno, para el tema, buenas tardes al público y encantada de estar con ustedes. Buonasera a tutti. Nel caso di Malvinas Argentinas, che sta a 12 km dalla capitale di Córdoba, nella provincia insomma di Córdoba, si dichiara nel 2013, si costituisce come una forza resistente contro questa piattaforma di Monsanto che avrebbe aperto lì e sarebbe stata la più grande di Latino America nel trattare i semi di mais. La notizia che a Malvinasina aprirà questa piattaforma di Monsanto la dà la stessa presidente dell'epoca, Cristina, e lo annuncia attraverso tutte le catene di informazione nazionali, proprio in televisione. Quindi, quel momento, giugno del 2013, le madri del barrio Ituzaingó, che è un altro quartiere vicino Córdoba, che stavano festeggiando per un processo andato bene contro il, diciamo, inizi di risultati che accertavano i danni delle fumigazioni dei pesticidi, accorrono e necessitano insomma di organizzarsi anche con altre realtà del posto come Malvinas Lucha per la Vida per resistere e per bloccare la costituzione di questa grandissima piattaforma che sarebbe stata la più grande del Latino America. Se cercate su Google l'immagine di Malvinas Argentina Monsanto avrete modo di vedere quello che è realmente l'impatto e di quello che è la piattaforma e quella che è stata anche la lotta delle persone proprio. Le persone si sono costituite nel settembre del 2013, insomma hanno iniziato proprio a fare un blocco di resistenza e di impedire l'accesso ai lavoratori nella pianta, che non è significato non avere ripercussioni violente, ripercussioni sulla società civile, che in realtà quello che chiedeva era riconoscere l'impatto ambientale che quell'impianto avrebbe avuto nel loro quartiere. Quindi con una consulta popolare così viene stabilito che il 77% della popolazione non vuole questa piattaforma. In realtà questo viene ignorato e le persone hanno continuato a resistere fino a 2 mesi fa. Monsanto ha annunciato finalmente che non avrebbe più lavorato in questo spazio di Malvinas Argentina. Lui mette delle ragioni economiche, in realtà possiamo come dire che è stata proprio la resistenza e la forza delle persone che hanno creduto nel blocco della piattaforma. Mi piacerebbe aggiungere qualcosa sulle madri del barrio Ituzaingó, che in Argentina o comunque associamo alla lotta delle madri della Plaza de Mayo, proprio perché anche le madri di Ituzaingó iniziano a lottare quando vedono che i loro bambini, che i loro mariti, che i loro familiari si ammalano e iniziano a fare un'indagine statistica casa per casa chiedendo che cosa insomma no, stanno soffrendo, quindi fanno proprio un'indagine epidemiologica e loro notano che le persone più colpite sono proprio quelle che vivono nelle immediate vicinanze dei campi dove avvengono le fumigazioni. Quindi inizia questa lotta che aveva dei precedenti nelle madri, no, della Plaza de Mayo, ma è comunque una lotta che adesso si definisce per chiarire nei territori la libertà di non avere queste fumigazioni e non avere l'aria contaminata da pesticidi. Los Argentina luchan por una zona libre de fumigación. Volevo che ci raccontassi un po' come ci si arriva a questa lotta delle Malvinas, quindi quando si inizia a parlare di biotecnologia in agricoltura in Argentina e quali sono gli attori coinvolti e le lotte che si sono messe in campo. Sì, a finales de los años 80 Allora, a finale degli 80 si stabilisce un sistema più forte di investigazioni ed entrano le imprese anche proprio a fare le loro ricerche e quindi si costituisce la Commissione Nazionale di Biotecnologia. E questo, insomma, è un processo che inizia a finale degli anni 80 e si promuove nei primi anni degli 90 e nel 96 si liberano proprio in Argentina insomma, i semi geneticamente modificati, facendo diventare l'Argentina un territorio di sperimentazione e il secondo paese dove si introducono i semi geneticamente modificati. In Argentina fuera il secondo paese en liberar transgénico. También durante los años 80 se comienza. Il primo passo delle agroindustrie in Argentina è quello di rimpiazzare il seme del mais colorato che era stato selezionato in Argentina addirittura dagli immigrati piemontesi arrivati che l'avevano coltivato e che dava una buona rendita per il mais dentato giallo che viene da Francia e Stati Uniti. Quindi quello sì era un mais non geneticamente modificato, ma già si inizia a introdurre un seme proveniente da fuori invece che utilizzare un seme nativo selezionato, scelto dalle persone che lavoravano in agricoltura. In Argentina c'è ancora una legge che fa riferimento alla Convenzione Nazionale delle Varietà Alimentari, che è quella del 78, loro ne avevano scritta una prima nel 73, ma che poi è stata comunque modificata nel 91. E in tutto questo quello che si inizia a dar spazio è alle corporazioni, che iniziano ad avere un potere proprio sulle royalties e quindi sulle sementi. Questo attuale governo, che sta cercando di cambiare la legge dei semi, che fa riferimento quindi a quella del 78, vuole introdurre assolutamente un controllo proprio di polizia su quelle che sono le agricolture più familiari e le agricolture contadini, impedendo di base lo scambio tra gli stessi contadini di semi e anche impedendo la selezione dalle proprie piante dei semi. Hay una complicidad dentro del Estado, cioè una complicità proprio dentro dello Stato e dentro dei mezzi di comunicazione per fare in modo che la società argentina non prenda visione, non prenda coscienza di tutti quelli che sono i costi della salute umana e della salute proprio del pianeta nell'utilizzo di un'agricoltura che è agroindustriale e che prevede l'utilizzo sfrenato di erbicidi e pesticidi. La risposta che è nata sono le cattedre libere di sovranità alimentare, che hanno il ruolo di invitare e quindi rendere aperto e partecipato questo spazio di dibattito non solo a professionali, a scientifici che sono liberi di pensare e quindi di raggiungere questi spazi, ma anche proprio alla società che in questo modo ha maniera di confrontarsi sulle tematiche che riguardano proprio la propria alimentazione. Allora, i governi precedenti, soprattutto i governi Kirchner, dal 2003, che poi è proprio il boom della soia, hanno comunque in quegli anni contemplato e utilizzato una ridistribuzione delle tasse provenienti dal guadagno della soia per dare comunque una maggiore attenzione a quei settori socialmente in difficoltà. Questo attuale governo continua ad incentivare questo tipo di agricoltura agroindustriale e trasferire questi fondi soprattutto alle classi alte della società. In questo senso, questo attuale governo quello che sta facendo è di non aiutare le agricolture familiari, ma di lasciarle totalmente sole e anche senza nessun tipo di attenzione, ma oltretutto mettendole in un settore di illegalità nel momento in cui iniziano con dei controlli di polizia per impedire lo scambio dei semi. Para cerrar, Diria che i movimenti sociali sia della città che della campagna si sono uniti, si sono anche ritrovati nella città di Buenos Aires con una manifestazione dove gli stessi agricoltori familiari hanno distribuito tra le persone più povere verdura e frutta per reclamare allo Stato un ruolo di partecipazione attiva in quelle che sono le agricolture familiari, perché senza un'attenzione statale sarà impossibile per loro resistere e mantenersi, ma la lotta sia delle campagne che delle città resiste e avanza. Un paese di quasi 90% di popolazione urbana, siamo 44 milioni di abitanti. Se questa popolazione urbana si riconosce come consumidora, può cominciare a reclamare la justicia por las tierras, la justicia por el ambiente, la justicia por las condiciones de vida.